sono qua, dimmi tutto. E qui con me. Ti sei chiusa dentro la porta. Vengo a liberarti. Teresita, tutto ok? DMR acceso ce l'hai? 1, 2, 3, prova. Allora funziona, anche se è caduto per terra. Sì, ma no, ma voglio dire, no, perché è sparita la frequenza, non c'è più la numerazione della frequenza, boh. Infatti non altro quello, ma digitandola già va sempre bene, non è un problema, basta digitarla e già va. Ah, c'è la stare così che già va bene, va benissimo alla grande. Ok, andate, dai. No, se non ce lo stavo già buttando. No, non si butta niente, lascia le stare, funziona alla grande, meglio di prima, va capigliato voi e funziona meglio di prima. Addirittura. No, ma me ne voglio comprare uno di quelli con l'alimentatore direttamente. Come c'è la Bacchisio ad esempio e anche Gio Maria, così almeno lo sto caricando, che alle volte ci si scarica la batteria e è una scocciatura. E come c'ho io ce l'ho collegato all'alimentazione, in macchina con il microfonino e tutto, il mio è un Voxon V8, costa un po' di più, però almeno ce l'ho portato nel serio, gli sigillesi non si viene a nulla cosa. Beh certo, mandami la fotografia se la puoi fare di quello adesso. Io te la posso fare, adesso la faccio e te la mando. Attento gufo, capo di bretta! Gufo con cuomane!